Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Chiaramente anche noi siamo in attesa a questo punto degli ultimi ritocchi del DPCM e soprattutto della conferenza stampa che dovrebbe arrivare, la comunicazione più che conferenza stampa da parte del Presidente del Consiglio Conte intorno alle 20:15, 20:20. Resta il fatto, ne parleremo nella seconda ora, di una forte tensione tra regioni e governo, stupore e rammarico per il metodo con cui il governo ha approvato il decreto che fissa le regole per gli spostamenti a Natale. E nello specifico, le regioni dicono il fatto che il governo abbia già dato un decreto con la cornice, per esempio il blocco degli spostamenti anche tra regioni gialle dal 21 al dicembre al 6 gennaio. Il blocco degli spostamenti se non all'interno del comune per tutti i 25, 26 e primo gennaio. Dicevo, le regioni sostengono che il fatto che questo sia già presente nel decreto svuota il DPCM, quindi anche il confronto con le regioni, e lamentano il mancato confronto istituzionale. Non c'è nessun riferimento ai ristori, dice nel decreto, per adesso aspettiamo di vedere il DPCM. Che cosa lamentano le regioni? Poi ne parleremo, soprattutto due aspetti. Da un lato, il decreto legge che impedirà il 25, 26 dicembre, 1 gennaio lo spostamento fuori dai comuni, perché questo vale anche per la visita ai parenti. Sostengono che crei grossi discrimini tra comuni grandi e comuni molto piccoli. Devo dire, questo già avviene nelle regioni arancioni. Nelle regioni arancioni ti puoi spostare teoricamente proprio, poi alcuni vanno a violare questo limite, ti puoi spostare solo nel tuo comune. È chiaro che c'è una differenza, come dicevamo nei giorni scorsi, tra il comune di Roma, il comune di Firenze, il comune di Milano, Torino, Napoli e comuni molto molto piccoli. Facciamo ieri l'esempio tra la Strassigna e Firenze, la limitazione è molto più forte. Questo però già avviene nelle zone arancioni. La critica è l'estensione e il blocco totale dal 25, 26 e il 1 gennaio. Non si capisce ancora se sarà possibile incontrare il parente, il genitore, diciamo, soprattutto se vive in una situazione di solitudine, se è da solo. L'altro elemento che viene contestato da Confindustria Alberghi, Federterme e anche Federalberghi è sostanzialmente il fatto che non si possa cenare il Capodanno, fare il cenone negli alberghi. Senza senso il cenone in camera, perché praticamente se verrà confermato vi sarà appunto l'impossibilità di cenare nel ristorante dell'albergo, anche se si è clienti, ovviamente nel resto dei casi sono chiusi, ma non il 31 dicembre. Albergatori che abbiamo sentito diranno: dovremmo organizzarci, è chiaro, impensabile fare il servizio in camera perché non abbiamo la struttura per fare un servizio in camera del genere, ci organizzeremo col buffet. Ma qui siamo ai dettagli. L'altro elemento che sta creando tensione invece è la data del 2021. Perché? Perché, se non ricordo male, anche il presidente del Veneto Zaia ha detto: attenzione, oltre che esservi una disparità tra comuni di servizi, tra comuni di dimensioni diverse, si rischia di dare un vantaggio, perché cosa succede? Fino al 20 tu puoi, se sei giallo, parliamo sempre se uno è giallo. Perché se è arancione, ripeto, puoi spostarti solo in comune; se sei rosso puoi uscire solo per motivi di necessità e urgenza. Ma se sei giallo, dal 20, cioè con il 21 dicembre in poi, non potrai comunque spostarti al di fuori della tua regione, mentre adesso da regione gialla a regione gialla si può andare. e sappiamo che con domani, soprattutto con il venerdì della prossima settimana, molte altre regioni italiane dovrebbero diventare gialle. Qual è il tema? È che sostanzialmente la critica che si fa, si dà un vantaggio a chi può muoversi, pensiamo al tema delle seconde case, fuori dalla tua regione, perché dentro la tua regione, se sei giallo, ti potrai sempre muovere, tranne che il 25-26 è il primo. Ma se tu hai una seconda casa in un'altra regione, che sia l'Abruzzo, o le Marche, la Val d'Aosta, il Trentino e via così, il Veneto e quant'altro, se parti prima del 21 sostanzialmente ti puoi spostare, se no no. E qualcuno ha detto, beh, questo avvantaggia molto chi può fare smart working e trasferirsi prima del 20 del 21 e chi invece è obbligato a restare al lavoro perché magari le ferie le ha scelte più tardi non sapendo di questa differenza. È chiaro che l'obiettivo finale è quello di ridurre gli spostamenti il più possibile, vedremo che tipo di compromesso arriverà. Nel frattempo segnalo che oggi parleremo anche del ritardo denunciato da Confindustria nel recovery plan del governo e l'ipotesi che una nuova riunione avvenga sabato sulla governance, come ne discutevamo ieri, cioè su come sarà formata sta cabina di regia, sta piramide che dovrebbe essere fatta dal Presidente del Consiglio affiancato sotto da Patuanelli e il Ministro dell'Economia e Finanze Gualtieri e poi sei manager per le sei diverse aree e ancora 200-300 esperti, ma sembra adesso, lo scrive il Sole 24 Ore oggi con Manuela Perrone, che gli esperti siano ridotti a 90. La Confindustria, l'ascolteremo, lamenta il fatto che non sono state coinvolte le imprese neanche nel patto per l'Italia e neanche coinvolte il mondo delle imprese sul piano di ripresa e rilancio. So che anche dentro il governo qualcuno ha fatto notare che c'è una sottorappresentanza, per essere buoni, per essere eufemistici, del mondo delle piccole e medie imprese, piccole soprattutto. Non ho detto che non vada mai bene niente, non sto dicendo che sia facile in questo momento, è difficile riuscire a trovare un DPCM delle regole che vadano bene a tutti, ho solo elencato le obiezioni che sono arrivate dalle regioni, soprattutto sulle tre date in cui non ci si può spostare da comune e poi in generale anche sulla data del 20-21, tutto qua, poi... Dunque, Barisone, ma chi va in albergo per trascorrere il 31 dicembre con concessione se non è possibile cambiare comune? Allora, ripeto, non è possibile cambiare comune solo il giorno 25, 26 e primo, per evitare appunto gli altri giorni del mese, se tu sei zona gialla, puoi cambiare comune, ma dal 20, anche nelle zone gialle, non puoi spostarti dalla tua regione, quindi... per quello che riguarda per esempio l'albergo, chiaro che se il lombardo va a un albergo in montagna o in campagna in Lombardia lo può fare tranne le date indicate, vale lo stesso per il Veneto, ammesso che la Lombardia diventi gialla, ma partiamo da chi è già giallo, Lazio e Veneto, si può spostare gli altri giorni e andare però in alberghi della sua regione, perché dal 20 in poi non ti puoi spostare da regione a regione anche se sei giallo, creando una disparità tra chi potrà partire il 20 da giallo a giallo e chi non potrà partire il 22 anche se deve andare da giallo a giallo. Spero di essere stato chiaro. Torno sul Recovery Fund perché ci sono state varie richieste oggi. C'è stato il convegno organizzato da Sole 24 Ore Smart Land in cui sono intervenuti numerosi soggetti. E poi anche la risposta del ministro Patuanelli e anche di questo parleremo delle offerte di pagamento. C'è un annuncio importante oggi, sì, un accordo tra SisalPay e il gruppo Intesa San Paolo con Banca 5 che crea Money, sostanzialmente si potranno effettuare oltre che le classiche operazioni, il pagamento delle bollette, carte prepagate, ricariche telefoniche, anche servizi prima disponibili solo nelle filiali bancarie, mi riferisco ai prelievi, ai bonifici, al MAV, nei 45.000 esercizi bar, tabaccherie ed edicole che appunto hanno che lo consentono. Di questo appunto parleremo nel corso del programma e anche dell'annuncio dello sciopero dei distributori di carburante. Da lunedì 14 dicembre fino alla mattina di giovedì 17 gli impianti di distribuzione di carburanti sia nella rete ordinaria che autostradale saranno chiusi per sciopero. Che cosa lamentano le categorie? Che non hanno beneficiato dei ristori. Quello che chiederemo è soprattutto l'obiezione del governo è dire voi non beneficiate dei ristori perché non siete chiusi, neanche parzialmente chiusi come i bar e i ristoranti nelle zone gialle. Certo che se uno volesse metterci un po' di ironia e malizia, immaginate che uno diventi giallo lunedì 14 dicembre, non può spostarsi perché è senza benzina fino al 17, gli scatta, gli bloccano le regioni il 20, quindi dal 18 al 19 e 20 uno va a fare il pieno e si sposta da regione gialla a regione gialla. Ecco. Vedremo se c'è qualche margine per sospendere questo sciopero, le regioni bocciano sempre tutto. Sì, lo so, le ho criticate molto le regioni su questo, non ho cambiato idea, nel senso che non è che le regioni siano la controparte, poi è giusto che facciano delle obiezioni, ma il giochino, l'abbiamo detto quando l'Italia fu divisa in zone gialle, arancioni e rosse, il giochino è dire no, io non voglio diventare rosso, non voglio diventare arancione, sembra quasi che ci sia da una parte il governo e in un altro stato le regioni. Ho capito, però non si può fare opposizione su una cosa del genere. Altra cosa è dire che non sono state consultate, che non è metodo fargli trovare un decreto che definisce già la cornice e la gabbia su cui si muoverà poi il DPCM e loro sostanzialmente non potranno intervenire e non c'è stato un confronto di carattere istituzionale. Che le regioni giocano un po' e i presidenti di regione a fare i difensori a secondo di come gli conviene di maggiori aperture. Però poi quando c'è da prendere misure più restringenti lasciano il cerino al governo, l'abbiamo detto molte volte. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook, le scuole, da quello che abbiamo visto dal 7 gennaio per tutte sarà la didattica il 50% in DAD, in didattica a distanza, e 50% in presenza, quindi soprattutto per le scuole superiori, medie superiori e le medie inferiori chiuse. Questo è l'obiettivo. Qualcuno mi dice, lei sta facendo un casino pazzesco, ma speravo di essere stato abbastanza chiaro, deve partire con le categorie mentali, intanto in che colore sarà la sua regione. E poi se è gialla si può spostare fino al 20 come adesso da regione a regione, dopo il 20 può spostarsi solo nella sua regione e il 25, 26 e primo si può spostare solo nel suo comune. Va bene così? Notizie in breve. Allora, i bar e i ristoranti mi stanno scrivendo, sì, è chiaro, ragazzi, non è che cambi il principio di prima, se tu resti rosso o arancione purtroppo fai solo asporto e delivery, se diventi giallo certo che puoi aprire fino alle 18 e da quello che abbiamo visto anche il giorno di Natale per evitare, e Santo Stefano per evitare che poi si creino troppi assembramenti nelle case, l'unica differenza è che tu sia che tu il 31 sera non potrai nei ristoranti degli alberghi, quindi anche in regioni gialle, rosse e arancioni, dove gli alberghi sono aperti e possono servire ai loro clienti, anche lì anche i ristoranti degli alberghi non potranno servire la cena, che siano gialle, arancioni o rosse. Sappiamo infatti che gli alberghi possono servire il pasto, la cena ai loro clienti. Il timore era, che era una certezza, molti si stavano già organizzando per prendere la camera d'albergo magari scontata in un pacchetto e fare il cenone dentro l'albergo, è chiaro che questo avrebbe creato un assembramento. Allora diciamo tutto, non è che tu puoi bloccare le persone il 25 e poi lasciare che qualcuno il 31 si ritrovi nel ristorante d'albergo magari 50-60 persone, se no veramente usciamo pazzi. Allora, andiamo avanti con le altre notizie in breve rapidamente. oggi il Presidente del Parlamento Europeo Davide Sassoli, in merito allo stallo sul Recovery Fund, ha detto: se non fosse possibile bloccare il veto di Polonia e Ungheria possiamo adottare quelle decisioni anche a 25, sarebbe doloroso ma non possiamo fermarci. E il ministro Gualtieri ha detto: il blocco non ci sarà, il 2021 sarà un anno storico, sperem, che storico vuol dire molto, può essere in un senso o nell'altro, anche il 2020 è stato un anno storico, ahimè. Allora, invece l'Unione Europea va avanti, ha scritto una lettera di messa in mora all'Italia sulle concessioni balneari. L'accusa qual è? Ce ne siamo occupati molte volte, dice l'Unione Europea, che noi non abbiamo mai messo in vera concorrenza le concessioni balneari, questo scoraggia investimenti in un settore fondamentale per l'economia italiana, e gli stati sono tenuti a garantire che le autorizzazioni, il cui numero è limitato per via della scarsità delle risorse naturali come le spiagge, siano rilasciate per un periodo limitato e poi con procedura di selezione aperta, pubblica e basata su criteri non discriminatori, trasparenti e oggettivi. È una carriera che va avanti da anni. Bruxelles contesta che i nostri rinnovi delle concessioni sono fatti per troppo tempo, cioè troppo lungo il rinnovo, e delle volte senza una gara corretta. Cioè si va in continuità. La famiglia che gestiva lo stabilimento balneare si vede rinnovata la concessione senza nessuna gara e per un periodo troppo lungo, secondo Bruxelles. Qualcuno mi dice: ma l'obiettivo è non avere la terza ondata? Certo che l'obiettivo è una terza ondata, evitare la terza ondata, perché è il timore di molti. L'ultima cosa che vorrei è tornare come con l'elastico indietro. Per le navi da crociera ci sono restrizioni, sì, lo dico a chi mi sta scrivendo adesso, però non, aspettiamo, ci sarà il blocco anche lì dal 20 al 6, perché pure lì alcune compagnie di navi da crociera si erano messe a offrire crociere nel mar Mediterraneo in cui ti garantivano il cenone nella festa di Capodanno. È ovvio che allora magari facevi Civitavecchia, La Spezia, Civitavecchia. È ovvio che anche quello viene bloccato, è previsto dalla bozza che abbiamo letto. Comunque andiamo avanti. Per quello che riguarda le stime dell'Istat, quest'anno si prevede una contrazione dell'8,9% invece un più 4% l'anno prossimo, quindi un po' più basso il calo ma un po' più basso anche il recupero l'anno prossimo. Il tasso di disoccupazione è al 9,4% quest'anno, all'11% nel 2021. Per quello che riguarda la relazione invece dell'Associazione Italiana delle Banche Estere, segnalo che l'AIBE oggi ha detto che è cresciuta nel 2020 l'attrattività del paese Italia, del sistema Italia, più 3,5%, ma non è ancora sufficiente. Per quello che riguarda invece il recovery, adesso vi arriviamo, vedo che molti me lo stanno chiedendo, allora apriamo la prima pagina ed è botta e risposta tra la Confindustria e anche il ministro Patuanelli sul coinvolgimento da un lato, dall'altro anche sui tempi del recovery, sui tempi in cui stiamo arrivando a preparare, ammesso che sia pronto il nostro piano. 349-238-6666 per sms o whatsapp. La quarantena per chi rientra dall'estero sarà in vigore dal 20 dicembre, lì funziona in maniera un po' diversa dalle bozze che abbiamo visto. Se torni da un paese europeo, tutti, però non c'è più nessuno escluso, e hai un tampone negativo fatto prima di partire, non devi fare la quarantena. Se invece arrivi da un paese extra UE, devi comunque fare la quarantena, e vale quindi anche per la Svizzera. Allora, il recovery, dicevo che sabato c'è l'ipotesi di un nuovo consiglio dei ministri, o venerdì sera, cioè domani sera o sabato, per discutere la governance, cioè come sarà strutturata quella che io chiamo cabina di regia, e chi deciderà, che mi interessa ancora di più, cioè l'accountability a chi farà capo che cosa e chi risponderà di che cosa. Emerge l'ipotesi di un super dirigente come un super commissario per coordinare i sei manager responsabili delle missioni del recovery. I sei manager saranno divisi appunto in sei aree: digitalizzazione e innovazione da un lato, infrastrutture sostenibili dall'altro, transizione ecologica il terzo aspetto, l'istruzione e ricerca quarto aspetto, salute il quinto, inclusione sociale e territoriale il sesto. Dovrebbero essere ridotti gli esperti, oggi appunto solo parlava di 90 esperti. Questo super dirigente o super commissario dovrebbe essere la figura di raccordo tra Conte, Gualtieri, Patuanelli, quindi il governo, e la struttura operativa dei sei commissari. Oggi il ministro alla giustizia, nonché capo delegazione dei 5 Stelle del governo, Alfonso Bonafede, ospite di Radio 24, 24 mattina, ha detto: a me la task force proposta da Conte convince. Non mi esprimo sul dettaglio, sul numero di 300 o meno, però io sono convinto che sia necessaria una struttura specifica che può essere una task force relativamente al recovery plan. Stiamo parlando di investimenti di carattere epocale, ma a me la struttura così come c'è stata proposta dal Presidente del Consiglio in generale mi convince. Chiaramente vedremo poi, ripeto, ci confronteremo nel dettaglio, avremo modo di ascoltare quello che diranno gli altri membri del governo. E questo Bonafede. Poi oggi Confindustria, e lo ha fatto in mattinata il presidente di Confindustria Bonomi, Carlo Bonomi, intervenuto all'evento organizzato qui da Sole 24 Ore, evento digitale, chiaramente Smartland, ha detto: attenzione, se insistiamo sulla mancanza di una visione strategica e di un'assenza di una politica economica, è perché ancora non abbiamo delle risposte alle nostre domande. E ha citato anche il ritardo sulla presentazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Se insistiamo sulla mancanza di una visione strategica, sull'assenza di una politica economica e industriale, è perché ancora non abbiamo queste risposte a queste domande e vorremmo discuterne. Le soluzioni possono essere diverse, ma una loro valutazione, se possibile, condivisione con noi imprese, potrebbe garantire una più effettiva rispondenza non solo alle nostre esigenze, ma soprattutto a quelle del Paese. Ad oggi, ormai in prossimità delle scadenze per la presentazione del PNRR, ancora non sappiamo se ci sarà un confronto sulle strategie e sui contenuti, una verifica delle reali fattibilità degli interventi, di investimento e di riforma, e non si può certo dire che gli stati generali del giugno scorso lo siano stati. Non si tratta di una pretesa o di un atteggiamento ostile, del tutto presunto e infondato. Sono le stesse linee guida della Commissione che prescrivono il coinvolgimento dei partner economici e sociali nella definizione e nel monitoraggio del PNRR per dare alla loro impostazione e attuazione maggiori garanzie di efficacia e di coinvolgimento diretto del mondo produttivo ed elaborare strategie, azioni e strumenti di intervento. Questa è, purtroppo, la più grave carenza dell'azione di governo che ormai stiamo riscontrando da troppo tempo, anche negli interventi adottati per fronteggiare gli impatti economici e sociali della pandemia, dover reagire a cose fatte, quasi sempre senza consultazione o verifica preventiva. Torniamo su questo, perché poi ha risposto il ministro Patuanelli, ma vi è stata anche una nuova nota di Confindustria. Qualcuno mi scrive: ma tornare alla residenza si può? Guardi che tornare al luogo di residenza si può sempre, si poteva sempre anche marzo e aprile, si può anche se il luogo di residenza è zona rossa o zona arancione. Quella è l'unica cosa che lei può sempre fare, e dovunque è, tornare al luogo in cui ha la residenza o il domicilio. Comunque, andiamo sul meteo e la pubblicità. Focus Economia. :17:38, adesso torniamo sul tema del recovery, del botta risposta tra Confindustria e Governo. Devo dare però un aggiornamento, perché sono appena usciti i dati E lo dico nel massimo rispetto delle posizioni di ognuno, quindi anche delle regioni, del non capire. Qualcuno continua a scrivermi dei comuni. Guardate che il fatto di non potersi muovere da un comune all'altro, magari il figlio, la figlia a un comune che ha 3 chilometri, vale già in tutte le regioni arancioni e vale a maggior ragione nelle regioni rosse, perché non ti puoi proprio muovere. Allora, i dati non sono belli, lo dico subito. Abbiamo toccato purtroppo un nuovo record assoluto, cioè da quando è iniziata la pandemia, nei decessi. I morti sono 993, mai così tanti, neanche ahimè a inizio aprile, se non ricordo male, era il dato peggiore. Vedremo adesso quando arrivano gli altri dati clinici. Certo che questo, eccolo qua, l'incidenza dei positivi al tampone è stabile al 10%, però il numero di morti è obiettivamente molto molto alto, e questo dovrebbe comunque far riflettere tutti sul, va bene le richieste, va bene tutto, però stiamo facendo richieste, avanzando ipotesi con una media di 600, 700, 900 morti al giorno. No, dico le richieste, non delle categorie produttive. Parlo del dire: vorrei andare a sciare, vorrei poter fare il cenone, vorrei andare a spostarmi per Natale, la seconda casa. Tutto bene, capisco tutto, non è una battuta, però stiamo ragionando di 900 morti al giorno oggi. Allora, dicevo, Bonomi, che poi il presidente di Confindustria ha aggiunto: io volevo un patto per l'Italia, ma sono rimasto solo. E le misure per le imprese sono frammentarie ed è inaccettabile non coinvolgere le imprese nella gestione dell'emergenza economica, sempre al convegno del Sole 24 Ore Smartland. Sarebbe bastato chiedere a una qualsiasi azienda quale fosse il primo problema da risolvere, per sapere che è mancata la copertura dei costi fissi rispetto alle minori entrate generate dalle restrizioni amministrative, la cui soluzione non è certamente quella di ricorrere al debito. Non era e non è accettabile che le imprese non vengano coinvolte preventivamente nella gestione dell'emergenza economica prodotta dalla pandemia. A maggior ragione non lo sarebbe per definire strategie e interventi per uscirne e per la ripresa. Il contributo delle imprese può essere determinante per un PNRR efficace e soprattutto realizzabile. Serve una visione che deve essere necessariamente multifocale, dalla prospettiva di breve e medio termine a quella di lungo e lunghissimo termine, che le imprese, soprattutto quelle manifatturiere, hanno nel loro DNA, perché sono quotidianamente chiamate a fare i conti con la complessità dei mercati interni ed esteri e con il rischio, ma hanno anche la capacità di guardare al futuro delle loro aziende, dei loro territori nei quali operano e del loro paese. E poi appunto la risposta del ministro Patuanelli, che ha detto: i rapporti con i corpi intermedi li ho sempre impostati con chiarezza e consapevolezza, anche per esempio per rilanciare Industria 4.0, comunque stiamo studiando un piano di comunicazione, e chiederemo aiuto anche a Bonomi per andare a raccontare a tutti gli imprenditori cosa possono fare con le misure di 4.0. Io penso che invece i rapporti con tutti i corpi intermedi, dal primo giorno almeno del mio mandato, io ho cercato di impostarli sempre con chiarezza e con consapevolezza dei ruoli. Io cerco di confrontarmi sempre con i corpi intermedi, con le parti sociali, con le parti datoriali, per costruire le misure ascoltando le esigenze di chi poi quelle misure le utilizza o le subisce in qualche caso. Dopodiché le scelte sono in capo al governo ed è giusto che il governo faccia le proprie scelte. Credo che sul tema del 4.0 le scelte che abbiamo fatto sono state assolutamente in linea con le richieste di Confindustria e di tutto il mondo delle categorie associative, delle diverse associazioni che esistono. Allora, un ascoltatore mi dice: oggi lei ha un tono diverso, è andato a educazione di bon ton. No, guardi, il tono forse se non ha capito, è perché in diretta ci è arrivata anche la notizia del nuovo record di vittime. Che tono vuole che abbia? Ogni tanto, no, collegare cervello con il resto del corpo non fa mai male. E il tono è di chi deve commentare una giornata come questa. Su, avrei un tono un po' più alto e allegro se avessi commentato un calo drastico e netto dei dati. Vabbè. Comunque, la risposta di Confindustria è questa, e poi con questo la chiudiamo, che lamenta che comunque sul recovery sul piano italiano del recovery il governo è indietrissimo. Abbiamo passato 6 mesi tra stati generali, precise richieste su priorità per l'uso del recovery e interventi strutturali, riforme in coerenza con le linee guida della Commissione Europea e le lezioni che abbiamo preso da 25 anni di bassa crescita. Al ministro Patuanelli riconosciamo sensibilità e collaborazione su temi come Industria 4.0, ma che sul recovery il governo sia indietrissimo su progetti e governance resta un fatto oggettivo e innegabile. Così appunto Confindustria, che sottolinea, se lo diciamo è per cambiare marcia nell'interesse del paese, ascoltando noi le forze sociali, non per calcoli politici che non ci appartengono. E ripeto, a me sembra, se vedremo la composizione del gruppo di lavoro, mi sembra che vi siano pochi, però vedremo i manager dove vengono, poche persone, quasi nulla, che viene dal mondo delle imprese, soprattutto piccole, perché voglio dire, va bene tutto, ma qualche manager che conosca il mondo delle imprese e delle piccole, perché magari le ha avute come fornitrici, conosce i ragionamenti. Se no, non si può far tutto da Roma, in teoria, magari con un'immagine del mondo delle imprese che è un po' sfocata, un po' vecchia, un po' stereotipata in molti casi. Bisogna conoscere nella loro concretezza. Comunque adesso andiamo sul traffico e poi, a proposito di imprese, parliamo di questa operazione tra Sisal e Intesa San Paolo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Sì, torniamo sul tema dei pagamenti, ma non solo il cashback, su cui torneremo, ma l'occasione è fornita oggi dal fatto che si sono uniti due soggetti, da un lato Sisal Pay, che è il primo operatore italiano per servizi di pagamento di prossimità, con Banca 5, Gruppo Intesa San Paolo, e hanno creato una nuova società, soprattutto un nuovo marchio, Money. Non sto sbagliando l'inglese, non è scritto come money, è scritto M-O Money, che se ho ben capito dovrebbe diventare la prima realtà non tanto di pagamento in senso stretto, ma loro la chiamano proximity banking and payments, quindi pagamenti ma anche banca di prossimità. Chiedo conferma all'amministratore delegato di Sisal Pay, Emilio Petrone. Buonasera Petrone. Buonasera e innanzitutto grazie di avermi ospitato. No, dici benissimo, nel senso che Sisal Pay e Banca 5 si sono uniti a inizio di gennaio di quest'anno e da novembre sono diventate Money, è una nuova società, abbiamo deciso di dargli anche un nuovo nome. E questo nome significa Proximity Banking, Banking and Payments, che poi detto in pratica significa anche avvicinare i pagamenti, i servizi bancari di base al cittadino, perché noi abbiamo 45-46 mila punti vendita in tutta Italia, che sono bar, tabacchi, edicole, e quindi ce n'è di fatto uno dietro ogni angolo, in ogni posto anche dei più piccoli comuni italiani. Ecco, questo c'è poi anche l'offerta digitale, e quindi serviamo in due modi i nostri consumatori. Ecco, qui va chiarito, quando si dice banca di prossimità non si intende l'apertura del conto corrente, però mi corregga se sbaglio Petrone, si intendono tutti quei servizi che di solito uno faceva prima solo nelle filiali bancarie, penso ai prelievi, ai bonifici, ai MAV, che adesso si potranno fare in tabaccheria, in edicola, nei bar, assieme agli altri, le altre operazioni di pagamento che già esistevano, bollette, carte prepagate, ricariche telefoniche, è così? Sì, è proprio così. Rimangono i servizi che offriamo da tanti anni, quindi bollette, ricariche telefoniche, ricariche delle carte, ma aggiungiamo i servizi bancari che ci vengono un po' dall'esperienza di Banca Intesa e di Banca 5, quindi i bonifici, la possibilità di fare dei prelievi, dei versamenti, eccetera. Quindi abbiamo unito all'anima dei pagamenti anche il pezzo bancario, dando un'offerta più completa ai consumatori. Ancora un paio di domande. Quanto l'operazione, immagino, con l'operazione di lancio, non è solo quello che gli inglesi chiamano rebranding, quindi dare un nome nuovo, ma avrà avuto anche un investimento di carattere economico finanziario? Sì, assolutamente. Noi investiremo circa 6 milioni di euro da una parte il rebranding, quindi far conoscere questo nuovo marchio, questo nuovo brand che è Money, ma poi anche e soprattutto nel lanciare e far conoscere i nostri nuovi prodotti. uno tra tutti, che parte fra pochi giorni, verrà lanciato alla metà di dicembre, la nuova carta prepagata Mooney, che è una carta molto, molto bella, molto pratica, perché è conveniente, è comoda, perché è del circuito Visa, quindi è accettata dappertutto ed è anche sicura, quindi si può effettuare qualunque tipo di pagamento, soprattutto sicura nei pagamenti online. Adesso le chiedo un paio di commenti invece su qualcosa che esula dal suo lavoro diretto, ma è a latere. Allora, il fatto che con Mooney e d'accordo con un gruppo bancario come Intesa San Paolo, voi andiate a offrire le operazioni, chiamiamole così, di base, di carattere bancario, prelievi, bonifici e MAV, non rischia di creare, non dico un cannibalismo, ma di essere concorrenziale alle banche, o lei vede nello sportello bancario qualcos'altro tuttora? No, noi non ci vediamo come concorrenti delle banche, ma in realtà riteniamo di andare un po' a riempire un vuoto che si è creato, perché molte filiali bancarie sono state chiuse, c'è stata una razionalizzazione dei punti di vendita, quindi dove c'era una filiale bancaria adesso c'è un punto vendita Mooney, e quindi diciamo dà un servizio che tutto sommato quella filiale lì aveva deciso per qualche motivo di non fornire più. Quindi in realtà lavoriamo in maniera complementare, anzi le banche sono nostri partner, perché è chiaro che ad esempio come nel caso di Intesa offriamo i servizi di Intesa ai cittadini e facciamo un servizio per loro conto. Sì, tra l'altro aggiungo io, con una grossa capillarità, lei ricordava come per razionalizzazione molti filiali hanno chiuso, o perché vi sono state aggregazioni bancarie o appunto razionalizzazioni. Il fatto che voi siete presenti come Sisal appunto in 45.000 tra Bartabac e Edicola rende anche più capillare il servizio. L'ultima domanda invece è un po' come chiedere, mi rendo conto, all'oste se il vino è buono, nel senso che voi avete anche una carta prepagata, però vorrei un giudizio da operatore in questo caso. Sul piano del governo di cashback, c'è chi dice un po' troppo farraginoso, c'è chi dice l'ammontare sono 150 euro di risparmio massimo a semestre, quindi 300 euro al massimo in un anno è basso. È chiaro che questo non considera il super cashback, cioè i primi 100.000 che potranno sommare a questi 300 euro in un anno altri 3.000 euro. Però volevo capire il suggerito, secondo lei servirà oppure rischia di essere velleitario? Secondo me servirà, e secondo me il governo sta facendo bene a prendere una serie di iniziative a favore del cashless e del digital. Il nostro paese ne ha bisogno, siamo indietro, lo sappiamo, rispetto ad altri paesi, e una delle poche cose positive che il Covid ha fatto e ci sta lasciando è un'accelerazione della digitalizzazione dell'Italia e dei cittadini italiani. Quindi fa bene il governo a spingere su questo punto. Facciamo bene noi operatori a sostenere il governo, come stiamo facendo nello sviluppo del cashless e del digitale. Anzi, se posso, bisognerebbe fare anche di più, sarebbe opportuno attuare una defiscalizzazione o comunque prevedere un supporto degli incentivi a chi investe, alle aziende che in questo momento investono a favore del cashless e del digital, perché l'opportunità va colta ora, in questo momento, in questa fase storica. Contemporaneamente, in questo momento, le aziende sono un po' in difficoltà e quindi casomai fanno fatica a investire o a fare extra investimenti. Quindi è il momento giusto per aver coraggio, fare un passo in più e sostenere le aziende negli investimenti digitali. Senta Petrone, per concludere, cosa risponde a chi dice, vedo già da molti messaggi, però questo va a vantaggio delle commissioni di chi emette le carte o di debito o di credito? C'è una polemica in corso da anni su commissioni molto alte, perché a me sembra che è vero che le commissioni sono ancora alte, ormai vivete anche voi in un mondo concorrenziale. Io penso anche a altri concorrenti che abbiamo avuto ospiti in altri casi, Satispay, così. Cioè, lei vede ancora un grosso margine come deterrente a utilizzare le carte? No, oggettivamente no, ormai le fee di intermediazione non sono più quelle di una volta, sono calate, c'è molta più concorrenza, in Italia ci sono tutte le grandi banche ovviamente, i grandi gruppi italiani, ma sono arrivati anche tanti gruppi internazionali e quindi diciamo la concorrenza ha abbassato questo tipo di costi, come secondo me era assolutamente giusto che fosse. E in più queste transazioni sono più sicure della transazione per cassa, Quindi io sinceramente non credo che questo debba essere considerato un tema. Poi ovviamente noi ci impegniamo, esempio, la nostra carta prepagata Munei è una carta molto conveniente, una carta economica, costa solo 8 euro all'anno, e quindi sicuramente è un prodotto che costa meno di un euro al mese. Io direi che meno di così non è possibile, considerando tutto quello che offre e come avere sostanzialmente un conto corrente di base. Sono d'accordo su questo, cioè sul fatto che si siano abbassate le tariffe, diciamo, di intermediazione. Qualcuno mi scrive: ma perché gli imprenditori dovrebbero avere, perché guardate che in chi l'ha spiegato bene Stefano Beraldo, mi ricordo questi microfoni, che è l'amministratore delegato di OVS, in chi gestisce molto contante ci sono dei costi, quindi soprattutto retail, chi ha a che fare con la clientela, ma non solo, ci sono dei costi molto alti nella gestione del contante, la sicurezza del contante. Cioè, il contante ha dei costi, non è che mettere in cassa o in cassaforte o trasferire con la struttura di vigilanza il contante non abbia dei costi. Quindi loro, chiaro che spingono, soprattutto quando hai a che fare molto con la clientela al consumo, per un utilizzo che abbia meno costi fissi per loro. Comunque, in bocca al lupo per la nuova iniziativa, appunto, Munei. Grazie a Emilio Petrone, amministratore delegato di SisalPay. Grazie di avermi ospitato e buonasera a tutti. Adesso andiamo su GR24, poi altri dati e alcuni commenti, e parliamo dello serrata dei distributori di benzina e di quello che sta emergendo nello scontro governo-regioni sul DPCM, sul decreto. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Tutti mercoledì a Due di Denari parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri. Tutti mercoledì parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAPP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Ospite fisso di Due di Denari, con studi, ricerche, analisi e consigli. Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro. Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti. Programma realizzato in collaborazione con INAPP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO, con il contributo del Fondo Sociale Europeo. Focus Economia. Sì, vabbè. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisone. Dunque, stanno uscendo altre indiscrezioni. Io a questo punto però aspetterei la comunicazione ufficiale del Premier Conte, perché da un lato sembra che anche su indicazione del CTS il governo stia valutando un'eccezione agli spostamenti, quelli proibiti tranne che nel comune, del 25, 26 e 1 gennaio per i comuni più piccoli. E questo vedremo. Dopodiché, come chiariva bene anche il nostro GR24, tra le eccezioni per potersi spostare, tra le necessità potrebbe come deroga al blocco degli spostamenti in quelle giornate, potrebbe essere citata l'assistenza a un familiare se solo. Questo per rispondere a chi mi sta scrivendo del parente, del genitore, insomma, che vive da solo e rischia di passare Natale da solo se tu non risiedi in quel comune. Si può indicare come deroga, appunto, uscita da un'agenzia, il ricongiungimento con un familiare che ha bisogno, che vive da solo. Chiaro che non puoi farlo con tutta la famiglia. Dopodiché io invito, perché ci sono situazioni molto delicate, ci mancherebbe, e capisco l'esigenza anche quando si ha un genitore anziano che vive da solo e non vive nel tuo comune. Peggio, ma questo vale anche per uno spostamento da regione a regione, perché se è una deroga, lo spostamento è una deroga. Però attenzione, perché adesso vedo le regioni ancora molto incavolate. Il presidente della regione Lombardia Fontana ha detto: ritengo inaccettabile che non ci si possa spostare di comune in comune il giorno di Natale e Santo Stefano, non tiene conto della realtà lombarda. Sono cose che vanno nella direzione di una segregazione dei cittadini, soprattutto gli anziani, che rischiano di dover trascorrere le feste da soli. Allora, ho chiarito che in realtà nel modulo, nell'autocertificazione, la deroga per la necessità, cioè l'elemento di necessità, può essere fatta appunto per raggiungere un parente che si trova da solo, di primo grado, immagino. Però attenzione, lo dico col massimo rispetto anche a Fontana, non giochiamo di nuovo le regioni che accusano il governo di essere brutto, sporco e cattivo. Poco fa il ministro Boccia alle regioni ha detto: lo stupore è incomprensibile, sapevate tutto. Cioè non vorrei vedere il film già visto con le regioni gialle, arancioni e rosse, Fontana, De Luca, Cirio e via così. No, perché lo dico al governatore Fontana, al presidente Fontana, bene, faccio notare che oggi abbiamo avuto il record storico da quando c'è il Covid di morti, 993, e che la Lombardia ha contribuito, tra virgolette, con 347 morti, quindi siamo ampiamente a più di un terzo su tutto il paese. No, perché un conto è la necessità di raggiungere un parente che non abita nel tuo comune, un genitore che non abita nel tuo comune e vive da solo, ed è una necessità che metti nell'autocertificazione. Altra cosa è giocare al dire il governo è cattivo, ci chiude in casa, quando le regioni stesse poi sono le prime a essere andate in affanno sull'aumento dei casi ospedalieri, per tante colpe che hanno anche le regioni. E se non mi fate tornare sempre sulle regioni, ma quando vedo che c'è il giochino, poi se devi chiudere perché hai i reparti sommersi, perché non hai fatto gli investimenti nella medicina territoriale, perché non hai creato le USCA per tempo, perché non risponde nessuno al centralino, lì ti fa comodo che sia il governo a chiudere e non hai tu il coraggio di chiudere delle volte, non tutte, alcune regioni hanno chiuso anche senza aspettare il governo. Poi però adesso giochiamo a dire ci vogliono costringere tutti in casa, facendo finta che il problema del ricongiungimento familiare non sia un problema, e sappiamo quali sono le fasce d'età che vengono più colpite dal Covid, per cui attenzione. Poi se le regioni lamentano di non essere state informate e di non essere state coinvolte, questo va bene, è giusto che lo lamentino, ma non giochiamo al noi avremmo aperto tutto, ci ha fatto chiudere il governo, eh. Allora, Martino Landi, presidente della FAIB Confesercenti, buonasera. Buonasera agli ascoltatori. Adesso vedo che il Consiglio dei Ministri per la governance sul piano di rilancio, sul recovery plan, dovrebbe essere tenersi lunedì a questo punto. Comunque, voi avete annunciato tutte le categorie, devo dire, FAIB Confesercenti, FEGICA CIS, FEGISH, ANISA Confcommercio, una serrata di tutti i distributori di carburanti dal lunedì 14 fino alla mattina, dalla sera del lunedì 14 fino alla mattina di giovedì 17, sia sulla rete ordinaria che sulla viabilità autostradale. Io ho fatto la battuta, adesso visto che ci si poteva spostare da regione gialla a regione gialla solo entro il 20, uno rischia di voler partire il 14 ma non ha la benzina, non ha il gasolio, aspetta fino al 17 e poi parte tutti concentrati dal 17 al 20. Ma al di là della battuta, voi dite, insomma, il governo non ci ha inserito nel decreto ristori, nelle categorie del decreto ristori. L'obiezione è: ma voi non siete chiusi? Cioè non avete le limitazioni che hanno, per esempio, i bar, i ristoranti, le palestre, le piscine, i cinema, i teatri, i musei. Poi farò di nuovo l'appello sui musei. E quindi la logica, la ratio era questa, no? No, noi non siamo chiusi proprio perché siamo un servizio pubblico, non siamo e non possiamo chiudere per legge, proprio per garantire il servizio pubblico, ma rimanendo aperti purtroppo con le misure restrittive che ci sono in questi giorni, in questo mese, che non consentono gli spostamenti, il coprifuoco notturno, mettiamoci tutto. Le nostre attività devono rimanere aperte, quindi subiscono tutti i costi di gestione che normalmente dobbiamo far fronte, con un abbattimento degli incassi sulla rete autostradale del 90-95% in meno, sulla rete ordinaria un po' meno, ma sempre solo intorno al 50% in meno del giro d'affari. E chiaramente questo ci mette in grossa difficoltà, perché non potendo intervenire su una riduzione dei costi, questo noi ci troviamo dei grossi problemi anche, diciamo, di sopravvivenza. Tra l'altro lo sciopero è anche mirato rispetto al fatto che certi provvedimenti che questo governo ci aveva assicurato di intervenire nel primo lockdown non sono stati portati a termine, e stiamo aspettando ancora dei decreti attuativi, per esempio, che riconoscevano i contributi figurativi che il Ministro dello Sviluppo Economico ci aveva promesso, quel rimborso, perché noi anche nel primo lockdown abbiamo tenuto aperto gli impianti in autostrada, abbiamo pagato i dipendenti praticamente incassando zero. Abbiamo dovuto pagare gli stipendi, abbiamo dovuto pagare i contributi a queste, a chi garantiva i turni di lavoro, e quindi voglio dire, non solo non siamo stati inseriti in quei provvedimenti che in qualche modo dovevano ristornare chi aveva un decremento del fatturato sotto una certa soglia, ma noi stiamo aspettando ancora i contributi che ci erano stati promessi dal primo lockdown. Allora, è un problema quindi dei contributi che aspettate dal primo lockdown, perché io capisco benissimo, è vero che c'è meno traffico, la sera non ce n'è perché salvo che per necessità tu non ti puoi spostare dopo le 22, nelle zone rosse non ti puoi spostare mai se non per necessità, nelle zone arancioni solo dentro il tuo comune, e nelle zone gialle invece puoi fare quello che vuoi fino alle 22. Però è anche vero che rispetto a altri settori un po' di traffico lo vede, il lockdown di marzo-aprile era una cosa, intanto non distingueva tra regioni gialle, arancioni e rosse, e poi questa volta più attività sono rimaste aperte. No, lo dico perché è difficile, è una lamentela che arriva anche ad altre categorie, ma è difficile immaginare un ristoro in chi è aperto. Vi basterebbe se vi arrivassero invece quanto promesso già a marzo-aprile? Lo sciopero nostro, la nostra come dire, protesta essenzialmente è mirata proprio a quello. Noi stavamo aspettando delle risorse che c'erano state promesse, e per non aver attuato quei decreti attuativi che dovevano andare a individuare in che forma dovevano essere rimborsati, oggi quella è rimasta sulla carta, non è stato eseguito questa promessa. È chiaro che capisco perfettamente, noi siamo una di quelle categorie che siamo dovute rimanere aperte, però consideri che nelle nostre attività ci sono anche altre attività, all'interno della distribuzione carburanti ci sono anche altre attività, noi gestiamo il bar nelle stazioni di servizio, gestiamo che però sono aperti, no? In questo momento sono rimaste chiuse, come i bar e come la ristorazione, che purtroppo ha subito un blocco totale. Mi scusi, io avevo capito però che la somministrazione di cibo nella rete autostrada fosse rimasta aperta. Ma guardi, la somministrazione nella rete autostradale al 90% non è gestita dal gestore che vende carburante, perché lì c'è un'altra gestione. Comunque ho capito, no Malandi, ho capito, lei mi sta dicendo almeno insomma fate il decreto attuativo e dateci le risorse di marzo e aprile. Devo dire che sul 90% di crollo del traffico autostradale, Landi, io non sono d'accordo con lei, glielo dico perché ogni tanto la macchina l'ho presa per motivi di lavoro, e non mi sembra che vi sia il meno 90%, cioè sicuramente nelle zone soprattutto gialle, però che vi sia un calo dell'utilizzo dell'automobile, questo è innegabile. Vedremo se arriverà una risposta anche dal governo, magari sospendendo, che permetta di sospendere, lo dico perché quella sarà una settimana cruciale negli spostamenti, e immagino in chi potrà muoversi da gialla a gialla per andare nelle seconde case fino al 20, e immagino che rischiate di perdere anche molto, molto lavoro, perché lì l'Italia potrebbe spostarsi un po' di più, Landi, quindi spero che vi sia poi alla fine un accordo che permetta di sospendere anche il vostro sciopero. Grazie intanto al presidente di FAIB Confesercenti, andiamo sul traffico. Focus Economia. Allora, qualcuno mi scrive: guardi che solo da noi c'è questo scontro, in Francia hanno già indicato il tipo di chiusure, spostamenti, e non c'è solo scontro, la Francia non ha le regioni, nel senso di come le abbiamo noi, e altri paesi si stanno organizzando per i vaccini, noi è da 2 settimane che parliamo di impianti sciistici, sciate, cenone di Capodanno e Natale, ho capito, io sono in parte d'accordo con lei. Però capisco, qualcuno mi scrive: ah, tutti si lamentano, se sono chiusi si lamentano, se sono aperti si lamentano, tutti vogliono tutto. Capisco anche molte obiezioni, mi stanno arrivando molti messaggi dai padri separati e da chi magari ha la mamma anziana in un comune e la figlia e la moglie in un altro, cioè, e dice: cosa devo fare? Adesso aspettiamo il decreto. Una cosa solo non accetto, non l'ho mai accettata: c'è qualche testa di organo riproduttivo che continua a scrivermi, più di uno purtroppo, ma sono morti per Covid, morti con Covid, andate a vedere l'età dei morti. A parte il fatto che io non andrò mai a vedere l'età dei morti, perché un morto è un morto, non è che facciamo le differenze. Ma guardate, per togliervi ogni dubbio, l'ho già spiegato, l'Istat, andate sul sito dell'Istat, ha pubblicato, ed è presente sul sito, la variazione percentuale dei decessi nel 2020, purtroppo si ferma solo fino a settembre, quindi immagino cosa capiterà anche da settembre in poi. La variazione percentuale dei decessi nelle varie regioni italiane rispetto alla media degli ultimi 4 anni, 2015-2019. E noterete che se prendiamo il periodo marzo-maggio di quest'anno, il Piemonte ha avuto il 47% di decessi in più, la Val d'Aosta il 41% di decessi in più, la Lombardia il 111% di decessi in più, il Trentino il 50%, il Veneto più 20%, la Liguria più 40%, l'Emilia Romagna più 48%, le Marche più 27% e via così. Le regioni del sud, che sono state risparmiate nella prima ondata, hanno dati infatti migliori, ma il nord ha avuto il 60% di decessi in più a marzo-maggio rispetto a marzo-maggio dei 5 anni precedenti. Cosa altro vi devo dire per convincervi che c'è stato un problema di Covid, se anche le cifre non vanno bene? Però va più comodo pensare: ma sono morti per altri motivi. Qualcuno mi ha scritto: ma quanti ne muoiono? Divida 900 per le regioni italiane. Ma lei sta pazziando? Ma divida, anzi unisca i due emisferi, per favore. Allora, Barbara Fiammeri, buonasera, alle sole 24 buonasera. Ore. A te l'aggiornamento di questo. A me sembra di rivedere un po' lo scontro quando il governo annunciò le regioni gialle, arancioni e rosse. Una cosa, su una cosa, diciamo, c'è un punto messo dalle regioni in maniera molto forte, al di là del 25-26 primo gennaio. Dicono: il governo ci ha presentato un decreto che di fatto blocca ogni confronto sul DPCM, perché già è una griglia, una gabbia così forte, quindi non c'è stata nessuna consultazione. Ha risposto poco fa Bocce dicendo: sono sorpreso dalla reazione delle regioni. È tattica politica o c'è stato un errore proprio di dialettica tra istituzioni? No, guarda, io per come l'ho vissuta in questi giorni ti dico che il confronto in realtà c'è stato, non è che non c'è stato, è che ovviamente poi è un conto è quando si parla, è un conto poi quando si vedono le norme scritte, come è avvenuto oggi. Non c'è dubbio che in presenza di un provvedimento che stabilisce tutta una serie di prescrizioni spesso impopolari, insomma, un po' la gara allo scaricabarile c'è. Detto questo, la sensazione che invece io ho avuto in questa occasione rispetto a situazioni precedenti è che anche i presidenti di regione, in realtà, la linea della prudenza, del rigore, stavolta invece la condividono. Cioè, a parte questa vicenda, ho visto anche De Caro, scusami, tra i comuni dei tre giorni, Natale, Santo Stefano, perché poi parliamo di tre giorni, per carità, tre giorni importanti per noi, però vorrei ricordare anche ai nostri ascoltatori che Israele, quando ha deciso il lockdown 2 mesi fa, e a capo di Israele sappiamo che c'è un governo di destra conservatore, con dentro anche esponenti del partito, diciamo, proprio più religioso, certo, di Israele, anche in Israele hanno deciso un lockdown durissimo, proprio un vero lockdown, proprio per evitare gli assembramenti durante la principale festa, cioè quello che per noi è il Natale e per loro invece era la ricorrenza che si svolgeva in quei giorni. Quindi c'è, cioè, questo problema, cioè, in tutto il mondo, non è che c'è in Italia. È chiaro che ci sono dei problemi e io credo che in questa occasione saranno importanti le cosiddette FAQ, cioè le risposte, allora, FAQ, chiarimenti che arriveranno. FAQ perché, non è un'espressione, non è un'espressione, non è una brutta parola inglese, no. FAQ vuol dire risposta a domande e quesiti. Sì, frequenti. che dovrà, frequente, frequent answer and questions, che dovranno arrivare. Tra l'altro, a confortare tra quello cui, che... scusami Sebastiano, sì, tra cui per esempio i famosi nonni o nonne che stanno da soli, esatto, il giorno di Natale, queste rientreranno tra le emergenze, cioè nessuno vieterà al figlio, cioè io faccio l'autocertificazione e, scrivo necessità, perché necessità e urgenza è prevista nell'autocertificazione, sì, certo, devo raggiungere mio padre o mia madre che vive da sola, certo, e questo lo potrai fare. Devo dire a conforto della tua tesi che è interessante la posizione dei comuni, perché se le regioni, non tutte, alcune, vedo che parla molto, ho visto Fontana in questo periodo, ma non solo, ho visto anche Zaia, poi non riusciamo a farla ascoltare, però i comuni con De Caro hanno detto no, tenete botta e tenete le limitazioni, ma non vogliamo rischiare di nuovo assembramenti che non riusciamo a gestire. Quindi la posizione tra molto più politica tra i presidenti delle regioni e molto più, a mio avviso, concreta dei sindaci dei comuni mi fa dire che ancora una volta i sindaci dei comuni hanno un'esigenza di controllo e amministrazione vera. I presidenti delle regioni si posizionano più politicamente. Comunque, Barbara, poi torneremo a commentare, perché adesso aspettiamo, come dicevi tu, il FAQ, cioè la vera interpretazione di quello che capiterà, le domande e le risposte, e soprattutto la conferenza, l'intervento del Presidente del Consiglio alle 20:20. Riavremo Barbara Fiammeri nei prossimi giorni con noi. Io intanto ringrazio la collega del Sole 24 Ore, ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi.